Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Vi mostro degli oggetti e poi diremo come si chiamano. Vi mostro degli oggetti e poi diremo come si chiamano. La clé. Questa è una chiave. Questa è una chiave. Le verre. Questo è un bicchiere. Questo è un bicchiere. La montre. Questo è un orologio. Questo è un orologio. Le lunette. Questi sono degli occhiali. Questi sono degli occhiali. Le telefono. Questo è un telefono. Questo è un telefono. Le peigne. Questo è un pettine. Questo è un pettine. Le ciseaux. Queste sono delle forbici. Queste sono delle forbici. Le rasoir. Questo è un rasoio. Questo è un rasoio. L'enveloppe. Questa è una busta. Questa è una busta. Le crayon. Questa è una matita. Questa è una matita.